La chiamava in bocca di rosa, prima l'amour, prima l'amour. La chiamava in bocca di rosa, prima l'amour per Mas de Fiur. Appena arriva dalla station, la debbie grasse, era evidente, un tunnel già da senza pretesto che era minga vena della San Vincent. L'amour se fa un po' per noia, un po' se fa per profession, bocca di rosa nell'una e l'altra, e la gametteva la passion. Ma la passion la te fa andare, cerca l'amour, avanti andrè, senza formasse tu bel fiore, libere Olga Namie. E dalla sera alla mattina, che saltaron tu ci addosso, in casa ai cagnetti della malura, resta meciula senza los. Ma i dunelli del paese gamminga troppa fantasia, e il bellozzo se limitava a quattro ciacere per via. Però che sempre un cuion che ver fa prende la classe, che pittinse siga da denter con un pu de cool bass. Insieme aveva mai sposata, senza fiulite mal mustusa, la ciappa in mala situazione, me la vusa, me la vusa. Adem cerca giustizia, due se fanno in quattro per assicurarla, il furto d'amore sarà punito, dall'ordine costituito. Tu ci infila dal commissario in cassa per quella casta diva, è una legge piena di clienti che la me parna cooperativa. E arriva allora quattro pulot, dris come un fus, arriva allora quattro pulot che te combina in un gran casò. Se sai pulot gamminga un cœur quanti servisi con la divisa, ma la station quella partiva se strappava in la camisa. E tu ci infila lunghi binari dal commissario al sacrestano, e tu ci infila lunghi binari con tio russo il cappello in mano, a salutare sta bella tusa senza pretese, senza pretese, a salutare sta bella tusa che la porta l'amore in del paese. Un bel cartel tu giallo con una scritta nera diceva addio bocca di rosa, con te va via la primavera. Ma una notizia original, gamminga bisogno d'un giornal, come una saeta la viaggia via senza bisogno della fanteria. E alla station de Gagiaga e tanta gente con i fiori in ma, chi usa amor, chi tira un fior, chi se prenota per un paradur. Anche prevos che le minga un ciula tra un miserere e un estremo un siulla, che da un posto in prima fila e la se porta in processione. E con la Madonna tutta parada e bocca di rosa, minga lontan, va in giro per tutto il paese, l'amor de Gesù, l'amor rufiam.